24 mattino. Siamo qui alle 8:19 minuti con 24 mattino, eccoci a riprendere fino alle 9, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Grazie, eccoci. Buongiorno anche a te. Allora, oggi parliamo dello sconto fiscale del 20% sì. su mobili ed elettrodomestici. Guarda, ieri abbiamo scoperto che negli Stati Uniti, e questa non è esattamente una cattiva notizia, hanno ripreso alla grande a comprare lavatrici ed elettrodomestici. C'è stato il dato sugli ordini di beni durevoli che sono saliti dell'1,8% a maggio. Ci si aspettava invece un calo, perché siamo partiti da là, perché naturalmente quando partono e ripartono i consumi in America probabilmente, insomma, è un buon segnale per tutta l'economia in generale. Allora ci siamo chiesti, ma quel famoso sconto fiscale che è stato varato nel nostro paese per rifare l'arredamento della nostra abitazione, che fine ha fatto, viene utilizzato, quali sono i criteri per ottenerlo? Tra l'altro in questo senso c'erano arrivate in questi giorni anche delle domande di alcuni ascoltatori che ci hanno chiesto di ritornare sull'argomento, e allora noi li abbiamo prontamente accontentati. Questa mattina ci aiuta Marco Zandonà, direttore dell'area fiscale dell'ANCI, l'associazione dei costruttori. Zandonà, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a tutti. Allora, intanto ricordiamo che stiamo parlando di uno dei famosi provvedimenti anticrisi, questo era quello di febbraio scorso a sostegno dei settori industriali in difficoltà nel paese, era il pacchetto all'interno del quale c'erano anche gli sconti fiscali per comprare l'auto nuova e rottamare quella vecchia. Parliamo però ovviamente di mobili ed elettrodomestici stamattina, cerchiamo di capire soprattutto che cosa è compreso in questa definizione, perché qualche ascoltatore ci ha posto proprio, Zandonà, questa domanda: esiste da qualche parte un elenco dove poter capire concretamente quali sono i complementi d'arredo nuovi che posso comprare appunto per usufruire di questo sconto fiscale? Purtroppo un elenco preciso e dettagliato fornito dall'Agenzia delle Entrate ancora non c'è, però basta fare riferimento alla norma, che è molto chiara, parla di acquisto di mobili elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe A+, di apparecchi televisivi e computer, ad esclusione ovviamente di frigoriferi e congelatori, per i quali fino al 31 dicembre 2010 c'è un'altra agevolazione. Tutto rientra chiaramente in questa definizione, quindi dal divani, dai tavoli, sedie, cucina, camera da letto, da computer, anche computer portabili, apparecchi televisivi, quindi diciamo che l'elenco è abbastanza articolato e ampio, diciamo. Sì, esatto, è anche abbastanza ampio volendo, a patto che l'acquisto del nuovo divano, del nuovo elettrodomestico che ci serve sia legato a lavori di ristrutturazione della nostra casa, che godano a loro volta dell'incentivo, del famoso incentivo del 36%, questo è un vincolo molto importante. Esatto, queste proprio sono le condizioni per applicare il beneficio, no? Il beneficio, ricordo, è pari al 20% delle spese sostenute fino a un massimo di 10.000 euro, e quindi la detrazione massima è 2.000 euro e si recupera in 5 anni in sede di dichiarazione dei redditi, come con il 36% che si recupera in 10 anni. Le condizioni sono innanzitutto che il cittadino deve aver iniziato nuovi interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari di tipo abitativo a partire dal 1 luglio del 2008. E che a partire da questa data ha sostenuto, quindi sempre dal 1 luglio 2008, spese per lavori di ristrutturazione edilizie pagati ovviamente con bonifico bancario. Le spese invece per l'acquisto degli oggetti di arredamento e degli elettrodomestici che devono andare ad arredare la stessa abitazione ristrutturata devono essere sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, che è la data ultima di applicazione dei benefici fiscali. Inoltre, tali beni devono essere finalizzati proprio all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e bisogna rispettare tutte le regole previste per il 36% anche per questa detrazione per i mobili, quindi pagamento delle fatture con bonifico bancario. Lei ha fatto anche un'altra precisazione importante: gli interventi che consentono di avere lo sconto del 20% non sono tutti quelli che beneficiano del 36%, quindi lo sconto fiscale legato alla ristrutturazione, ma solo quelli di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali, quindi solo all'interno della casa. Se nel nostro condominio hanno rifatto l'ascensore e quindi per quel lavoro io posso comunque ottenere la detrazione del 36%, non è che posso comprare il frigorifero nuovo in casa. Esatto, quindi se faccio, se sono stati eseguiti lavori condominiali per i quali fruisce del 36, o anche lavori su pertinenze, quindi box, soffitta, cantina, di ristrutturazione, per questi ovviamente non vale l'agevolazione del 20% per gli arredi. Allora, tra l'altro vorrei ritornare un attimo sulle questioni legate alla tempistica. Per avere la detrazione, abbiamo ricordato, i lavori devono essere iniziati dopo il 1 luglio del 2008, ma devo aver comprato l'elettrodomestico, il divano nuovo, a partire dal 7 febbraio, cioè dalla giornata in cui praticamente è entrato in vigore il provvedimento a sostegno dei settori in crisi, come abbiamo detto prima. Però fino a quando eventualmente posso rifare l'arredamento? Mi pare fino alla fine di quest'anno? Salvo proroghe, la data ultima è il 31 dicembre 2009, quindi il bonifico bancario per l'acquisto dei mobili deve essere effettuato non oltre il 31 dicembre 2009. Perché, Zandonà, secondo lei è stato individuato questo vincolo riguardante la tempistica, vincolo per la verità in termini positivi, del 1 luglio 2008, anche se il provvedimento è stato varato a febbraio? In questi casi il provvedimento ha un effetto retroattivo, diciamo. Ecco. Ovviamente sappiamo che prima si voleva collegare il 36% con questa detrazione del 20%. È chiaro che prima si iniziano i lavori di ristrutturazione e poi si acquistano i mobili eventualmente. Quindi ci vuole proprio una certa tempistica. Ovviamente se la detrazione, tra l'altro è limitata nel tempo, è scattata a partire dal 7 febbraio 2000, per i pagamenti del 7 febbraio 2009, hanno dato la possibilità, per dare una maggiore efficacia a questa nuova agevolazione, di applicarla anche per i lavori che erano già in corso alla data di entrata in vigore della legge, o comunque che erano finiti da poco. Quindi volevano dare un certo effetto retroattivo in questo senso, tenuto conto della tempistica in cui abitualmente si svolgono questo tipo di attività, cioè prima ristrutture e poi compro i mobili. Un'ultima indicazione, poi ci salutiamo perché il tempo a nostra disposizione sta già scadendo. Vorrei ancora qualche indicazione concreta sulle modalità di pagamento che poi mi permettono ovviamente di presentare con la dichiarazione dei redditi le spese che ho sostenuto e di ottenere lo sconto. Ribadiamo che serve un bonifico postale o bancario, ma con uno scontrino è sufficiente appunto come documentazione di spesa? È sufficiente, quindi, perché negli esercizi generalmente non c'è la fattura, c'è lo scontrino. L'importante è che il pagamento avvenga con il bonifico bancario, in cui è espressamente indicata la causale del versamento, che appunto si può mettere detrazione del 20% per acquisto di mobili, oppure proprio il riferimento normativo, che è l'articolo 2 del decreto legge 5/2009, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione e la partita IVA dell'esercizio, ovviamente, che vende il mobilio, insomma. Mm-hmm. Questo è importante. Ovviamente non andrà indicato, come per il 36% in fattura, il costo della manodopera, perché qui non c'è un'attività di lavoro ovviamente relativa all'installazione, diciamo, all'esecuzione dei lavori. Grazie. Grazie a Marco Zandonà, direttore dell'area fiscale dell'ANCE, per essere stato con noi, e noi ridiamo la linea ad Alessandro Milan. Prima però Salvadanaio, mutui, in tanti ci chiedono, mutui, insomma, che fine ha fatto lo sconto del 4%, quello di Tremonti, insomma, nessuno si è visto restituire un bel niente dalla propria banca, guarda caso. Infieriamo un po' sulle banche stamattina. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati ai 24 mattino, diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Continuano le proteste a Teheran dopo le elezioni presidenziali contestate. Secondo alcune testimonianze, la polizia iraniana ha sparato sulla folla. La CNN parla di repressione con manifestanti picchiati come animali. E l'emittente di Stato Press TV ha aggiornato a 20 morti dall'inizio delle proteste il bilancio. La politica contro di me è una campagna di odio che certamente non fa bene al paese, dice Silvio Berlusconi. Intanto il gruppo editoriale L'Espresso ha querelato il premier, che a Santa Margherita Ligure invitò gli industriali a interrompere gli investimenti pubblicitari su certa stampa. Per quel che riguarda l'opposizione, invece, il segretario del PD Franceschini ha deciso di candidarsi alla guida del partito nel congresso di ottobre. Lo faccio, ha detto Franceschini in un messaggio internet, per non riconsegnare il partito a chi c'era molto prima di me. Infine, oggi il via all'esame di maturità per circa 470.000 studenti. Si parte con la prova di italiano come da tradizione, è scattato il tototema. Sono tre le indiscrezioni più ricorrenti: l'elezione del presidente Obama, un'analisi della Divina Commedia e la crisi economica. Ma ricordo che ne parleremo alle 8:45. E dunque alle 8:34 minuti 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Parliamo di un evento che, a dire la verità, si aprirà ieri un po' in sordina, come detto. I giochi del Mediterraneo si aprono a Pescara, ci sono 23 nazioni iscritte, ci sono 4.000 atleti, 800 medaglie in palio, 30 discipline. Insomma, ma se ne parla poco, non ci sono grandi notizie sui giornali per un evento che dovrebbe essere un evento importante, sportivo. Un paio di giorni fa, a dire la verità, il Sole 24 Ore ne ha parlato per mettere l'accento su, come dire, un altro aspetto dell'organizzazione, un aspetto sicuramente non positivo. Io voglio salutare Giuliano Balestreri, che è collega del Sole 24 Ore. Giuliano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, a Pescara, titolava il Sole 24 Ore nel tuo articolo, nel tuo reportage, più poltrone di Pechino, questo nel comitato. Esatto. Che cosa si è scoperto, insomma, di questa organizzazione, di questa manifestazione? È una manifestazione partita col piede giusto, benissimo, nel 2003, un grande entusiasmo in città, grandi preparativi, grande voglia di far bene, e poi piano piano si è spenta. Tutto è cominciato quando, al momento di nominare il comitato organizzatore, sono state create 78 poltrone, un numero monstro, gigantesco, che ha impedito di prendere decisioni rapide ed efficaci per 5 anni. 78 persone, tanto per fare un esempio, come tu scrivevi, a Pechino, nelle Olimpiadi di Pechino, le persone del comitato erano 18. E ad Atene 20. E ad Atene 20, questo per organizzare un'Olimpiade. E i giochi del Mediterraneo invece in 78. Allora, resta con noi Giuliano. Io intanto voglio salutare. La situazione, insomma, si era un po' aggravata nell'organizzazione. Si era scoperto anche un ammanco di 37 milioni di euro. Finché a dicembre è stato chiamato per salvare un po' la situazione, non so se possiamo dargli anche questa patente un po' del salvatore, l'onorevole Mario Pescante, che saluto. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, onorevole Mario Pescante è un uomo di sport innanzitutto, è un uomo che poi è di politica e sport, è un onorevole del Popolo della Libertà, è membro del CIO, del Comitato Internazionale Olimpico. Insomma, onorevole Pescante, lei anche nell'intervista che ha concesso a Giuliano Balestreri, che è qui con noi, ha detto effettivamente questa dei Giochi del Mediterraneo è un'occasione perduta, però ha parlato, quando è stato chiamato a intervenire a dicembre, con termini peggiori allora, cioè adesso è un'occasione perduta, allora era un rischio di un buco di clamoroso di soldi, se non altro? Ma guardi, no, siccome ho sentito parere a manco, qui sia chiaro, nessuno è scappato con la cassa, perché non vorrei che ci sia una brutta interpretazione. Sono stati impegnati dei fondi, direi, come dire, con una certa superficialità, non tenendo conto del budget finale, che è stato uno dei motivi fondamentali della crisi organizzativa, complicata da altri fattori, lasciamo perdere. Cito solo un dato: mi sono trovato di fronte a un consiglio di amministrazione di 78 persone. Infatti, io sono abruzzese e mi sono lamentato perché non c'erano i miei parenti di Avezzano, ma insomma, ben inteso, dovrebbe essere una battuta spiritosa. Anche sì, se sì, l'abbiamo colta come battuta. 78 dire, persone è una cosa assurda. Ma com'è possibile? C'è stato il cambio di governo e si è aggiunto un altro comitato che si è aggregato al pezzo. Insomma, lasciamo perdere. Diciamo che c'è stato un approccio molto provinciale e con grande, come dire, con una dote che qualche volta gli italiani hanno di improvvisazione, ma questa volta il risultato è stato tragicomico. Devo dire, si è lavorato 120 giorni, c'è il pareggio di bilancio, ripeto, non per un ammanco, ma per conti maldestramente fatti, o meglio non fatti. Abbiamo recuperato, ieri c'è stata l'assemblea di tutti i paesi, complimenti, non dico più ce la faremo, ce l'abbiamo fatta, domani c'è questa cena inaugurale, c'è un record di partecipanti, di squadre, altissimo livello, in più i tre circhi dei continenti del gioco del Mediterraneo, e cioè Africa, Europa ed Asia, a questi se ne sono aggiunti altri due, perché verranno qui anche i delegati delle città candidate alle Olimpiadi 2016, quindi Rio, Chicago, Tokyo, Madrid. Questo vuol dire che c'è stata una dimostrazione di grande compartecipazione e solidarietà di tutto il mondo olimpico ed internazionale. Però le chiedo, onorevole Pescante, visto che lei anche a Torino, insomma, a Torino lei ha già spiegato, era una situazione in cui la città, tutto il paese rispose forse in una maniera straordinaria, una maniera forse anche inattesa per l'entusiasmo. Che cosa invece ha colto a Pescara? Magari poi purtroppo sappiamo anche quello che è successo, la tragedia, insomma, in Abruzzo, che ha colpito l'Abruzzo e l'Italia. Cosa è successo? Un po' più di freddezza riguardo a questa manifestazione? Guardi, onestamente devo dire, come sono arrivato qui, la prima dichiarazione è stata quella di scuse all'Abruzzo e agli abruzzesi per queste occasioni che, lasciamo dire, in Italia diciamo sempre la colpa di tutti e non di nessuno. No, la colpa è di tutti, compresi noi del mondo sportivo. No, gli abruzzesi una volta sono stati sensibilizzati, stanno rispondendo in maniera straordinaria. Qui c'è un record di volontari. Ieri ne abbiamo allontanati 750, 3200 giovani che sono qui, che sono venuti dall'Aquila. Praticamente c'è un volontario per ogni atleta, c'è un record mai raggiunto nei giochi mediterranei, ma che si avvicina addirittura alle percentuali di qualche edizione dei giochi olimpici. Quindi stanno rispondendo in maniera straordinaria, andavano motivati, gli si doveva spiegare che questa non era una qualunque gara sportiva, è qualcosa di molto importante, è un ponte tra due civiltà. La cattiva politica dice che queste civiltà si scontrano, noi col Mediterraneo e lo sport invece lo vogliamo far incontrare. Quindi devo dire, nulla da addebitare alla gente d'Abruzzo che, e concludo, oltre che essersi dimostrata orgogliosa, composta, sobria nel dolore, ha dimostrato una straordinaria voglia di rinascere proprio grazie ai giochi. Nessuno ha detto destiniamo quei fondi per altre cose oppure hanno contestato. C'è grandissimo entusiasmo e voglia di dimostrare, grazie ai giochi, che questa non è solo la regione del terremoto, ma la regione che vuole rinascere. Per la manifestazione che parte domani. Tra l'altro, Giuliano Balestreri del Sole 24 Ore, non per fare il menagramo, per carità, ma tu giustamente, facendo il giornalista, stando lì a Pescara, osservando, hai anche detto che, per carità, non vogliamo portare sfortuna, ma la procura, cioè, ci sono degli elementi sui quali, sulla gestione che è stata fatta fino, diciamo, alla preparazione prima dell'arrivo dell'onorevole Pescante, sulla quale la procura mettendo un po' il naso? Ha acceso un faro, diciamo. Sì. Non c'è ancora nulla di ufficiale, però si stanno muovendo in questa direzione, perché la gestione, è vero che ne sono scappato con la cassa, però oggi è stata un po' allegra. Su quali aspetti? Come spiegava anche l'onorevole Pescante, questa gestione un po' semplicistica di soldi, anche se sono alcuni rimborsi spese che non quadrano tantissimo nella prima parte della gestione. Non so se ci siano gli estremi poi per procedere con un'indagine a tutti gli effetti, però qualche elemento è stato acquisito nel frattempo. Questo si vedrà. Onorevole Pescante, la questione di tutte le manifestazioni sportive, dalle Olimpiadi a queste importanti, è la questione poi dei villaggi. I villaggi che si creano per ospitare tutti gli atleti sono oltre 4.000 in questo caso. Che ne sarà di queste strutture una volta che finiscono i giochi del Mediterraneo? Ma intanto vorrei segnalare, ahimè, il termine a me non piace, perché ogni volta che gli italiani fanno qualcosa di buono si parla sempre di miracolo, cioè sembriamo incapaci di fare, per cui se avviene è un miracolo. No, non è un miracolo, è stata una impresa straordinaria di imprese abruzzesi, scusate il bisticcio, imprese, ma non so come definirle, che in 16 mesi hanno creato uno splendido villaggio mediterraneo che è stato inaugurato 2 giorni fa e che mai si pensava si potesse costruire in questo brevissimo tempo, che tra l'altro ha una utilizzazione pubblica e privata subito dopo, come casa dello studente e anche come abitazioni private. Ma è stata veramente, come dire, adopriamo pure la parola miracolo, sì. un miracolo della imprenditoria abruzzese, al punto tale che c'è stata una delegazione, in particolare di un paese, non cito quale, arabo, che è intenzionata ad inviare una delegazione di non so, non saprei come definirla. In Italia diremmo Confindustria oppure Associazione dei costruttori, per verificare quello che hanno fatto, come lo hanno fatto, perché sono interessati a riproporre questo bellissimo, chiamiamolo esempio, di celerità, di costruzione bella, perfetta esteticamente. Tra l'altro non è facile mettere questi palazzoni uno dietro l'altro, concentrati in questa maniera molto elegante, per molte manifestazioni che ormai l'Africa è intenzionata a organizzare, il prossimo edizione del Gioco Mediterraneo, ambizioni anche per campionati mondiali africani e così via. È stato forse il messaggio più bello che dal punto di vista extrasportivo l'Abruzzo ha dato. Onorevole, per concludere, ci fu la polemica che è ancora rimasta su, ovviamente, sui giornali, del fatto che a questi giochi nel Mediterraneo non partecipa Israele, come non partecipa neanche, diciamo, l'autorità palestinese, che non è uno Stato, ma in altre manifestazioni ci sono rappresentanti palestinesi come le Olimpiadi. E sarà davvero l'ultima edizione senza Israele? Ma guardi, io mi scusi, è una piccola rettifica. Sì. Non è che non partecipa Israele come anche la Palestina. Non partecipano Israele e la Palestina. Sì. Perché il discorso che la Palestina non è paese non rileva effetti del Comitato Olimpico. No, noi ma infatti lo Comitato Olimpico. Sì, io non rettificavo lei. Sì. Siccome si parla solo di Israele, tra l'altro lo dico con un certo fervore, perché da 15 anni, dai giochi di Bari, mi sto battendo per questo. Ecco, questo sì che sarebbe un miracolo, che però lo sport da solo non può fare. C'è una roadmap politica che sta andando avanti, in parallelo, grazie anche alle iniziative che con il ministro Frattini e soprattutto con il suo entourage abbiamo preso per cercare di avvicinare, per trovare delle soluzioni. Per essere ammessi ai giochi del Mediterraneo serve una delibera di un'assemblea, è una scelta democratica l'assemblea, non compete a noi organizzatori. Sì, non è una questione solo sportiva, insomma, è una questione né che anche della politica. Ora, è inutile illudersi e fare demagogia. Se non si quella map politica, diplomatica, non trova un minimo approccio di colloquio, ma non possiamo fare miracoli da soli. Non è lo Devo sport. Dire che però qualche inizio di dialogo lo abbiamo avviato, stiamo lavorando per volo. Allora, no, ma io questo, insomma, l'augurio è che sia così, ma insomma è un percorso non solo sportivo, di questo ne do atto ovviamente, anche la politica si deve mettere in mezzo su questa vicenda, se lo sente come un problema, come secondo me, anche se non è il primo problema nell'agenda mondiale, per carità, ma se si organizza una manifestazione del genere lo è un problema. Io vi ringrazio l'onorevole Mario Pescante e Giuliano Balestrieri del Sole 24 Ore, domani l'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, insomma, allora li seguiremo anche per quanto è possibile, anche come manifestazione sportiva. 24 mattino. Sono le 8:48 minuti. Quando ho detto parliamo di maturità, quanti ricordi, giustamente il tecnico Carmelo mi ha detto comunicandomi durante la pubblicità, e quanti incubi. Bravo Carmelo, che ancora gli incubi per l'esame di maturità. 470.000 studenti che stanno in questo momento, in questi minuti, sono pronti per la prima prova, quella del tema di italiano. Io tra l'altro voglio salutare Antonio Scurati, buongiorno. Buongiorno. Antonio Scurati è uno scrittore di grande successo, l'ultimo libro Il bambino che sognava la fine del mondo, ma ha anche scritto un libro, Il sopravvissuto. Io ho detto non ci ascoltano in questo momento gli studenti, sono lì pronti con l'esame, perché Il sopravvissuto parla di uno studente che insomma la combina un po' grossa, Scurati, fa l'esame di maturità e ammazza tutti quelli della commissione tranne uno, il sopravvissuto per l'appunto. Vabbè, però Scurati è anche stato professore per 4 anni, insomma, racchiude un po' tutto. Allora, la domanda classica innanzitutto è quella: la sua maturità, Scurati, la ricorda come un incubo, come una soddisfazione o che? Ah sì, io la ricordo bene, la fece a Venezia in un liceo pubblico statale ma di grandissima tradizione, si chiama Liceo Foscarini, che era gestito con i criteri di una scuola selettiva, aristocratica, molto, molto retrò. E io mi sentivo molto fuori luogo e mi presentai come mi vestivo normalmente. La prima cosa che mi dissero: ma le sembra il modo di venire vestito alla maturità? presi 36. Minimo. Accidenti, 36, eh sì, è il minimo proprio. Ho cominciato a studiare dopo, un metro fuori dalla scuola, un mese dopo, iscrivermi all'università, cominciai a studiare, divenni uno studente molto, insomma, dedito. Ma infatti, guardi, io abbiamo recuperato dalla redazione una sua intervista di un qualche tempo fa, a dire... cari ragazzi, studiate, ma attenzione, la scuola è un sistema burocratico, purtroppo spesso non è in grado di dare cultura, e quindi studiate soprattutto quello che, non dico quello che non vi insegna, ma studiate soprattutto fuori dalla scuola. Accidenti. Sì, io dicevo, studiate soprattutto negli interstizi, cioè nell'intervallo tra l'ora di matematica e l'ora di storia, nel quarto d'ora di ricreazione, nel dopo scuola. Ma dico questo perché, non perché voglia suggerire una formazione ribelle, trasgressiva, no, ormai sono cose del passato, ma perché oggi, io adesso insegno all'università, ma nel frattempo l'università è diventata un liceo, quindi è come se insegnassi ancora al liceo. La cosa drammatica, ed è il motivo per cui io ho raccontato il mondo della scuola in quella, diciamo così, chiave tragica della strage di cui lei parlava prima, la cosa drammatica è che secondo me i nostri studenti di oggi sono la prima generazione da molto tempo che non riceverà una formazione, una vera formazione, magari rigida, magari parziale, però non sono formati, sono abbandonati a loro stessi, e quindi a maggior ragione diventa indispensabile una, come dire, un'autoformazione. Io lo dico sempre anche ai miei studenti universitari, non pensate che laureandovi voi sappiate veramente qualcosa. E per questo, allora sarà d'accordo con il ministro Gelmini, ha visto che c'è un aumento del 30% di non ammessi alla maturità rispetto all'anno precedente. La Gelmini ha detto basta con la scuola del buonismo, la scuola del 68, finalmente si torna a rigore. No, non sono per niente d'accordo con il ministro Gelmini, e lo dico con rammarico, purtroppo non mi trovo mai d'accordo con lei. Questa mi sembra una cattiva retorica, tanto quanto lo fu quella, diciamo, della trasgressione ad ogni costo. Qui non si tratta di bocciare i ragazzi o di escludere i ragazzi che non ce la fanno e che sono vistosamente al di sotto degli standard di accettabilità, che ce ne sono tantissimi. Si tratta di formare tutti gli altri. Di formare tutti gli altri e concentrarsi sui proclami retorici di rigore formale significa dimenticare che anche tutti gli altri che invece vengono promossi non ricevono una formazione. Il problema è che oggi, e il ministro Gelmini dovrebbe saperlo, le agenzie formative, usando una brutta parola, chi dà in qualche modo un'educazione, una diseducazione ai nostri ragazzi, non sono più le istituzioni tradizionalmente preposte, sono altri soggetti, basta leggere i giornali oggi, basta accendere la televisione, queste istituzioni, compresa la scuola, sono state screditate, svuotate, impoverite, e per questo si sono indebolite, non per la cattiva volontà degli insegnanti che ce la mettono tutta, molti di loro e molti di loro no. Allora, visto che sono appunto minuti in cui fervono sia il tototema, fervono i preparativi, fervono anche i tentativi forse di copiare, no? Ormai tra BlackBerry, tecnologie varie, insomma ci si prova, ce la si prova di tutto. Oggi mi ha fatto molto tenerezza vedere, c'era una foto su un giornale di uno studente che scriveva con scritto sul palmo di una mano una formula di matematica che evidentemente non riusciva a ricordarsi. Adesso è tutto col BlackBerry, la tecnologia, le penne laser, invece un tempo si scriveva sul palmo della mano, no? Tentando di occultare poi la mano. Io voglio salutare la professoressa Antonia Marinelli. Ci sente, professoressa? Come no, sì. Buongiorno. Buongiorno. Lei insegna italiano e storia all'Istituto, sì, di Istruzione Superiore Ottavio Coletti all'Aquila. All'Aquila, sì. E dunque, insomma, un luogo... Zona del terremoto. Esatto, zona del terremoto. Tanto è vero che all'Aquila e comunque nelle zone colpite dal terremoto la maturità si svolge in modo un po' particolare, così? All'Aquila, solo, sì, all'Aquila. All'Aquila, certo. Perché il cratere è stato l'Aquila, e no, nelle zone limitrofe no, nelle altre città l'esame è normale. Ah, perfetto. All'Aquila si svolge come? Solo orale, sostanzialmente? Noi abbiamo un esame di Stato, sono 900 allievi, e abbiamo solo la prova orale, che parte da questa mattina. Che parte, tra l'altro, dalle 8 e mezza. Sì, sì, sì. Lei si è liberata un attimo già, per noi. Sì, sì. Sì, appunto. Magari c'è già il primo promosso. Esame, sì, No, assolutamente. Assolutamente, troppo presto. No, è un esame un po' particolare, anche perché lo svolgiamo in una palestra, l'unica agibile, che è proprio quella del nostro istituto, per fortuna, e nei container che sono sparsi sul piazzale della scuola. Quindi tutte le scuole superiori dell'Aquila da questa mattina svolgeranno gli esami in questo luogo. La zona si chiama Colle Sapone ed è quella che è stata, se vogliamo, un po' meno martoriata dal terremoto. Certo. Quindi siamo tutti quanti lì. Con quali... tante scrivanie, tante cattedre, tanti banchi e tutti insieme, angolo per angolo, comunque tutte le scuole insieme da stamattina. Con quale stato d'animo? Ovviamente gli studenti saranno comunque, agitati, la tensione, l'agitazione, agitati, sì, certo. Sì, sì. Certo. Un pochino agitati, sì, anche se vogliamo un po' rassicurati, perché una forma di generosità si è già vista anche dagli scrutini intermedi, quindi insomma sono un po' rassicurati. Ma, se vogliamo, non ammessi ce ne sono stati ben pochi, sono quelli che si sono non ammessi da soli, nel senso che non sono venuti, non hanno frequentato. Quindi ecco qua, per il resto adesso aspettiamo l'esito. Aspettiamo l'esito. Io, professoressa, la lascio, insomma la ringrazio, la faccio rientrare nella commissione. Vorrei concludere con Antonio Scurati. Scurati, sempre nell'intervista che abbiamo raccolto, visto che si parla tanto di copiare tecnologie, lei ha descritto così l'esame che ha fatto, il concorso che ha fatto per diventare professore. Ricordiamo che ha insegnato 4 anni anche in un liceo. Era il 2001, aveva appena superato un concorso per 12 posti a cui partecipavamo in 4.000, un concorso in cui i candidati copiavano in maniera palese e nessuno diceva loro di non farlo. E quindi copino anche gli studenti a questo punto, no? No, voglio dire, no. se si copia per diventare professori. Lo so, è una cosa triste, però nascondersi, non esagero quella situazione. C'erano addirittura i volumi delle enciclopedie squadernati sui tavoli, non come dire libricini occultati e nascosti. Purtroppo non possiamo assolutamente estendere agli studenti questo vizio degli adulti, però per non farlo dobbiamo cominciare a denunciarlo, insomma, dobbiamo cominciare a guardare a fondo anche un po' in quell'abisso che si è aperto sotto la scuola italiana e sotto l'università, con coraggio e con forte senso autocritico. Non voglio dare la stura a nessuna polemica, però dai, è un po' la polemica antica, è un po' è quel fascino della scuola, uno che tenta di copiare, il professore che tenta di beccare. Per carità, studenti, fate tutto secondo le norme, però oggi con la tecnologia come si fa a fermarli? Cioè, nel giro di un quarto d'ora sarà tutto, sapremo già qual è la traccia nel momento in cui hanno aperto le buste, insomma, dai. Ma guardi, questa dinamica da guardie e ladri, no? Nella scuola può anche, come dire, essere colore, divertirci, commuoverci, e va bene, può anche far parte di un processo appunto educativo di crescita, in cui l'adolescente si comporta da adolescente e l'adulto si comporta da adulto. Il problema è quando vengono meno questi due ruoli, quando l'adulto continua a comportarsi da adolescente e smette di, come dire, fare un passo nel territorio dell'adolescenza, della giovinezza, per imporre una legge che è la legge del mondo adulto e tirarlo a bordo, e quindi pretendere che studi innanzitutto. Gli studenti universitari non studiano più. Io sono all'università adesso, sto per entrare in una commissione di tesi. Gli studenti universitari, non solo quelli iniziali, Scurati, se no magari adesso si è incattivito, non studiano più, fa una strage. No, io ho questo tono di voce così appassionato, perché mi accadono, ma in realtà poi ho un lato morbido. Va bene, saranno contenti gli studenti che la stanno ascoltando. Io la ringrazio, Antonio Scurati, scrittore, ha scritto Il Sopravvissuto un paio d'anni fa, perché ambientato proprio esami di maturità, Il bambino che sognava la fine del mondo, invece è l'ultimo della Bompiani. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo a tutti gli studenti per la maturità, ovviamente. Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia, lascio la linea GR24 e a Giuliano Ferrara con Parliamo con l'Elefante. A domani.